Buonasera, bentornate e bentornate su Radio ZM, questa è Pillole di Ecologia, con me c'è il buon Dave che ormai da diversi mesi a questa parte ci sta accompagnando e arricchendo la trasmissione. Bella Dave. Bella Cesare, bella a tutti. Anche questo mese proseguiamo il tema affrontato il mese scorso, che era quello della riforestazione. Ne abbiamo parlato l'altra volta come riforestazione di terreni urbani, cioè di habitat urbani, e abbiamo parlato in particolare del Parco Ticinello, che è una questione, un'annosa questione che riguarda proprio la zona di ZAM e di Milano Sud. E appunto oggi andiamo un po' avanti con questa cosa, quindi per parlare di riforestazione, le potenzialità ma anche le difficoltà che ci stanno dietro. Esatto. Quindi, vabbè, voi ormai i nostri e le nostre ascoltatori e ascoltatrici sapranno che Dave, cioè, non è il primo coglione preso a caso, ma è uno che, diciamo, ha studiato questa roba qua e di lavoro ha fatto, sta facendo e vuole fare questa roba qui, no? Quindi, esatto. Ripetiamolo giusto per i più distratti, le più distratte o per chi si fosse appena collegato. Dave Mo sta a Copenaghen, dove ha fatto un master in management ambientale, correggimi se sbaglio. E ci sta. Cioè, la parola management a me sta sul cazzo, perché sembra, sai, quando parli in inglese per sembrare figo. Certo, diciamo gestione ambientale. Esatto, dai. Ok. Anche gestione, un po' troppo capoccia. Però vabbè. Comunque, qualcosa che riguarda l'ambiente e la... Insomma, la comprensione di come si gestisce un ecosistema, mettiamola così, e mi raccontava qualche giorno fa che ci sono dei dottorati super interessanti lì da lui, e quindi ci siamo detti che non potevamo non parlare di questa cosa. Esatto, e ci arriveremo a parlarne di questo progetto strainteressante, cioè sia dal punto di vista del potenziale che della teoria che c'è dietro, ecco. Però prima serve un po' una specie di... bisogna arrivarci un passo alla volta, diciamo. Ok, quindi qual è il primo passo per arrivare a quel punto? Il primo passo è capire che riforestare e rigenerare una foresta sono due cose diverse. Perché tu puoi riforestare, ovvero piantare alberi a randa, a caso, ovunque, e avrai un sacco di alberi. Però un sacco di alberi non fanno una foresta. Questo perché una foresta è composta da un sacco di altre componenti che funzionano tutte in perfetta sincronia tra loro e in perfetto equilibrio, un equilibrio dinamico che cambia nel tempo, ma comunque un equilibrio fatto di tantissime parti. Sì. E quindi se tu pianti alberi e basta, avrai alberi e basta all'inizio. E la questione è che un bosco che cresce in 20 anni, perché in 20 anni puoi averlo un bosco, un boschetto, non è in alcun modo comparabile a una foresta che è rimasta lì e è cresciuta per centinaia di anni. Certo. E quindi nella prospettiva contemporanea, moderna, in cui ho trovato una statistica, 27 campi di calcio, l'equivalente di questa area, viene perso ogni minuto in deforestazione. Ogni minuto si guadagnano 27 campi di calcio, perché non c'era più foresta dove adesso ci sono i campi deforestati, che è tantissimo. Sì. E questa deforestazione, quando è tra virgolette sostenibile, viene subito accompagnata da una riforestazione che tuttavia non può aspirare ad avere lo stesso, cioè non puoi dire riforesto e quindi siamo punti a capo come se non l'avessi fatto. Certo. Perché appunto, visto che una foresta ha bisogno di così tante in condizioni, se tu la tagli e ripianti una foresta giovane, hai semplicemente sostituito la foresta vecchia con quella giovane, non hai rigenerato la foresta. Certo, perché appunto, come dicevi tu, una foresta matura ci vogliono centinaia di anni per arrivarci. Sì, 100, 200, 300 anni, se non di più, cioè più la lasci meglio è. Però comunque, cioè, se consideri una quercia può vivere 1000 anni, abbastanza in tra. Un faggio, anche lui, magari arriva a 400-500 anni. Comunque, scala tempo completa della nostra, e purtroppo di alberi di questa età in Italia ce ne sono pochissimi. Cioè, di fatto hanno fatto un catalogo e sono tutti registrati. Da così poco non c'hai una foresta di cui non puoi contare gli alberi perché sono troppi. Certo. E quindi è importante capire che appunto una foresta giovane non è come una foresta vecchia. Certo. Perché, come dire, come dicevi tu all'inizio, fare selvicoltura, cioè piantare più alberi possibili per avere legname, è diverso da riforestare. Esatto. Cioè, perché se tu hai gli alberi crescono facile. Però, appunto, ci vuole tempo perché siano accompagnati da tutta una pletora, per usare un parolone, tutta una pletora di organismi e altre e altre cose che ci sono in una foresta che sono che richiedono tempo, a prescindere da tutto quello che puoi fare. E per esempio, ho fatto qualche appunto di cose che ci sono in una foresta e che invece non ci sono necessariamente in un bosco appena ripiantato, sono per esempio questi alberi monumentali, ovvero alberi che sono cresciuti abbastanza lungo da creare, da avere una forma tutta loro, non sono tutti i soliti paletti come gli alberi delle strade, tutti, cioè, ok, sono alberi, ma non sono alberi monumentali, non sono pieni di nicchie, magari con un buco, un ramo spezzato o un sacco di muschio che ci cresce sopra. Questi sono chiamati alberi monumentali e sono tutti alberi vecchi di diversi secoli. Ok. E sono organismi che all'interno della foresta hanno una funzione, un ruolo chiave, perché al di sopra del suolo sono estremamente complessi, estremamente grandi e quindi offrono una enorme varietà di habitat a un sacco di specie diverse, che sono sia animali che muschi, che altre piante, che funghi, di tutto. Ma anche al di sotto del suolo, nel sottosuolo, hanno un apparato radicale, per usare altri paroloni e sembrare estremamente professionale. Estremamente hanno... professore. Esatto. Hanno questo apparato radicale molto molto sviluppato che si estende per un'area molto più grossa rispetto a un albero piccolino. Certo. La cosa più importante è che queste radici sono nel 99% dei casi connesse a micorrize, che sono particolari funghi che riescono a formare una connessione con le piante. E questi funghi connettono questo albero a tutti i nutrienti che ci sono nella zona, perché i funghi sono molto più bravi ad assorbire i nutrienti, quindi l'albero, essendo connesso a questi funghi, riesce ad assorbire meglio i nutrienti. Beneficia del fatto che c'è questo fungo attaccato. Esatto, ma cosa ancora più importante, che è stata scoperta solo recentemente, è che questi funghi connettono questo albero agli altri alberi e alle altre piante del bosco. E questa è una cosa importantissima, perché questi vengono chiamati network micorrizici, e questi network, appunto connettendo le piante di una foresta, permettono di far sì che le piante più mature, che parte dell'energia prodotta dalle piante più mature venga trasferita a piante più giovani o piante in difficoltà, o piante che di loro, per conto loro, non riuscirebbero a produrla questa energia. E sono un esempio diverse specie di orchidee che non producono clorofilla, quindi non sono in alcun modo in grado di autosostenersi. Okay. E vivono solo e unicamente grazie ai nutrienti che gli vengono portati dalle loro micorrize, e quindi dalla connessione che hanno con gli altri alberi della foresta. Questa è una cosa importantissima nelle foreste più vecchie, che non si verifica nelle foreste giovani. Certo, e che per verificarsi ci vuole un botto di tempo, immagino. Esatto, perché appunto i funghi non è che crescano velocissimi. Cioè, tu dici cresci come un fungo, ma quello che cresce veloce è il frutto del fungo. Il fungo vero e proprio in realtà è tutta una rete di piccolissime radici, che si chiamano ife, che corrono per tutta la foresta, ma prima che si formi un network con tante specie di funghi diverse, connesse a tanti alberi diversi, con alberi belli sviluppati e belli grossi, quello ci vuole tantissimo tempo. Sì, sì. Anche perché se parti da un campo agricolo non ce li hai proprio questi funghi, perché i funghi micorrizici vengono completamente distrutti dalla aratura dei campi. Ok. E quindi questo è anche un problema che adesso sta venendo studiato, perché se anche nell'agricoltura si potessero avere l'aiuto delle micorrize, questa sarebbe molto più efficace. Certo. Mentre invece quando ari il campo tu distruggi tutto questo network, cioè ovviamente se ari le radici di una pianta, uccidi la pianta. Certo. E lo stesso succede ai funghi. Vengono semplicemente distrutti in mille pezzi e nel corso di una stagione non fanno in tempo a rigenerarsi. Sì, sì. Infatti uno dei concetti della permacultura è proprio non arare il campo. E quello che ci guadagni appunto sono questi network di micorrize. Però vabbè, questa era una divagazione che però ci aiuta a capire perché sono così importanti le foreste che vengono chiamate vetuste, quindi quelle foreste che hanno avuto tutto il tempo necessario per sviluppare queste strutture. Sì, sì, sì. E che quindi non è una questione della singola specie neanche, è una questione proprio di dare il tempo a questa specie di espandersi in tutta la foresta. Poi, un'altra cosa importante è per esempio il legno morto, che forse ne abbiamo già parlato in passato, in italiano ha un nome fichissimo, si chiama necromassa forestale, che okay. Sarebbe bene... Sì, ne avevamo già parlato, adesso che mi dici il termine mi è saltato alla mente. Esatto, che anche quella è importantissima perché anche qui moltissimi funghi e moltissimi insetti e altri organismi hanno bisogno, cioè non esistono senza questa componente importante dei boschi. E se tu parti da un campo coltivato e ci pianti un bosco, prima che c'hai un'intera generazione di alberi che iniziano a morire, te ne passa. Certo. Poi magari qualcuno si schianta perché si è malo, perché c'è la tempesta, così. Però è anche importante avere diverse classi di dimensioni. Per esempio, alcuni funghi e alcuni insetti riescono solo ad esistere, a crescere, in tronchi molto grossi, di alberi secolari che sono caduti nella foresta. Quindi non solo ti serve avere una foresta con alberi secolari, serve averne abbastanza in modo che ci sia una fonte costante di alberi secolari caduti a terra. Quindi è un casino avere una foresta vera e propria. Per questo è una disgrazia quando vengono tagliate le foreste vetuste, come succede in Siberia, in Australia, come è successo negli Stati Uniti durante l'invasione degli europei, sì. Succede in Sud America, vabbè, in tutto il cazzo di mondo, fanculo, sud-est asiatico. In Europa le abbiamo tagliate praticamente tutte, però c'è stato il tempo per cui se ne formino di nuove. Vabbè, poi altri abitanti del bosco sono animali, che anche loro ci sono quelli più, come si può dire, più ruspanti. Sì, okay. Quelli più ruspanti che non gliene frega più di tanto, come le volpi o i tassi o i lupi, e finché c'è il bosco non c'è un contadino che gli spara, crescono. Infatti queste specie sono aumentate molto velocemente in Italia. Però ci sono diverse altre specie che richiedono più tempo, perché richiedono che il bosco torni nelle condizioni primigenie. Sì, mi ricordo che quando mi avevi passato del materiale sulla fitodepurazione, alcuni bioindicatori, cioè indicatori presenti in natura della salute, ad esempio, di un bosco, mi ricordo che mi avevi detto che ad esempio i gufi esistono solo dove ci sono alberi appunto molto vecchi che permettono di avere i buchi dentro al tronco per la tana, eccetera. Esatto. E quindi esatto. Il bosco giovane non ci sono. Esatto, anche alcuni picchi hanno bisogno di alberi belli grossi. Poi, nel senso, si può più o meno risolvere la cosa mettendo dei nidi, cioè gli scatoloni dove... Certo. Però non è la stessa cosa. Sì. E poi ci sono tutta una serie di altri abitanti del bosco che fanno molta, molta, molta più fatica a raggiungere un bosco nuovo, perché mancano delle abilità di dispersione che consentono ad altre specie invece di invadere le cose o di spostarsi molto velocemente. Se pensiamo per esempio ai muschi, che non hanno il seme, non sono neanche dispersi dal vento. Insomma, un muschio per riprodursi deve o staccarsene un pezzettino e essere piantato altrove, o deve fare le spore e deve pioverci sopra. E le spore sono come degli spermatozoi, le spore dei muschi, e quindi devono nuotare nelle goccioline d'acqua, incontrarsi e formare un nuovo muschio. E minchia, ora che succede questo, è che, cioè, ora che facendo così percorrono 50 chilometri, passano secoli. E quindi certo, non è una cosa fattibile in tempi umani. E questo spostamento più o meno semplice di specie, di, chiamiamolo così, più general generico, ci collega alla seconda parte della nostra puntata. Esatto. La seconda parte che sarà il concetto di connettività e dei corridoi ecologici, che è fondamentale appunto in questa prospettiva della biodiversità dei boschi. Ok, so che tu ti sei preparato, come varie altre volte, delle chicche musicali da sentirci. Esatto. Questa chicca, beh, io non è che sia così esperto di musica, sicuramente nella radio ci sono tracce estremamente fighe, però questa mi piace. Questa è di Menhir, è una traccia che risale a un album che ha lo stesso nome del gruppo, che si chiama Menhir, che sono due rapper sardi. La traccia si chiama Anno Zero, è uscita nel 2007 e parla, scopritelo voi di cosa parla. Dai, ce la sentiamo e ci rivediamo subito dopo, sempre a Pillole di Ecologia. Yes. Pronti per l'ultimo blackout, l'ultimo raggio di luce prima delle tenebre, il vostro nuovo mondo. Mi sto prendendo come un fossile, scompaio in quest'era fatta di guerre non pitosi, che per ritornare in vita tra 5 milioni di anni, constatare di persona l'effetto dei nostri danni. Quando la razza umana si è estinta ormai già da tempo, niente fabbriche, macchine, altri palazzi, vincimento, solo giungle popolate da rettili e predatori, da scarafaggi, da insetti e da roditori. L'unica testimonianza del nostro passaggio qui saranno soltanto le antiche pietre dei Menhir, perché le acque dei mari sommergeranno i continenti con la furia dei venti e dei tsunami più potenti. 120 di onda tutta battuta sulle nazioni, devasterà città, piantagioni e popolazioni. Testimoni sapranno che questi eventi saranno solo esempi, che giunta la fine dei tempi, che la nostra salvezza non è là fuori ma altrove, perché là fuori un mare di fango ma ancora piove. Ancora stanno lì seduti a discutere intorno a un tavolo, dove chi detta legge dovrebbe chiamarsi il diavolo. Il mondo è un cane che mangia quello che vomita, parla di pace sperimentando la bomba atomica. Le grandi nazioni fanno guerra per il petrolio, seminando solo morte, miseria ed odio. L'inizio, la fine, dei tempi, lo spinato segnano quale confine. Le armi, i soldati, la fame, la guerra, l'effetto devastante delle bombe sulla terra. L'uomo, la storia, il futuro e il passato, non rimarrà più traccia di ciò che abbiamo lasciato. Il buio, la luce, il piano, il nero, il mondo si prepara, il passo con l'anno zero. Tutto è pronto per quest'ultimo blackout, il mondo prende fuoco nelle strade dei blackout. Suonano i tamburi della morte gli avvoltoi, questa notte sai, volano sopra di noi. E quando scoprirà l'inferno sarà eterna oscurità, non ci sarà più vita, solo deserto e città. Sprofonderemo in basso negli abissi del pianeta, se c'è un diavolo che aspetta in questa terra maledetta. Dal destino ormai segnato, il conto alla rovescia per la fine è cominciato. Niente, nessuno può fermare la distruzione, siamo morti che camminano senza una direzione. Appunti dal mistero come i segreti di Fatima, ci stiamo avvicinando a scrivere l'ultima pagina. Perché non c'è ragione in questo gioco di potere, se non quella di uccidere l'uomo e farlo tacere. Così come in Epino la differenza che è reale, la polizia reprime la violenza con il male. Ci hanno costretto a vivere rinchiusi nel terrore, da esperimenti scuri, guerre, sangue e dolore. L'unica vera certezza mentre è giunto il tuo momento è che non c'è salvezza in questa corsa contro il tempo. E le tici infedeli pagheranno con il scritto, dopodiché parlerà chi fino adesso è stato zitto aspettando un nuovo conflitto. La fame, la guerra, l'effetto della matanza della... Rieccoci qui. Con voi ci sono sempre il buon Cesar Juan Kenobi e il buon Dave direttamente da Copenaghen. Bella. Questa è Pillole di Ecologia, questa è sempre Radio ZM. Ricordiamo, l'appuntamento con noi è tutti i mercoledì sera o tardo pomeriggio, l'ultima settimana del mese, quindi l'ultimo mercoledì del mese. E da un po' di mesi a questa parte non lo stiamo più facendo in diretta, per cui quello che sentite è una registrazione. Potete comunque scrivere su tutti i canali della radio, principalmente sulla chat di Telegram, chat_radioZM, per fare dei commenti, delle considerazioni. Esiste anche un canale Telegram dove vengono buttate dentro tutte le novità, che sono sempre tantissime, e anche appunto le nostre puntate, i podcast e tutto quanto. I podcast sono tutti sul sito di ZAM, nella parte di Radio ZM. E niente, dopo tutto questo pippone su come mettersi in contatto con noi, torniamo al nostro tema. Esatto. La canzone che abbiamo sentito era Anno Zero dei Menhir, scelta dal buon Dave. Stiamo parlando di riforestazione e in particolare dell'importanza che ha la possibilità di spostarsi di più specie possibili da una parte di foresta diciamo matura a invece una zona da riforestare. Esatto. È una questione importantissima e che rende tutti gli sforzi di riforestazione o comunque di rigenerazione di ambienti molto più complessi. Perché immagina di essere una specie che riesce a vivere quasi solo in una foresta. Ti trovi in una foresta e vedi che a 5 chilometri, magari, dopo 5 chilometri di campi agricoli, c'è un'altra foresta. Però tu ci devi arrivare a quell'altra foresta e sei mega in sbattine in campi agricoli. E quindi di fatto foreste che sono separate, isolate e appunto prive di connettività tra loro in mezzo ai campi agricoli è come se fossero delle isole separate dal mare. E quindi appunto questo concetto era stato proprio ideato e studiato all'inizio con le isole, perché era facile capire che se un'isola è lontanissima da tutte le altre terre emerse, sarà molto difficile che ci arrivino specie nuove, perché appunto devono superare il mare, cazzo. Però lo stesso succede in scala molto minore, quindi non che arriva una nuova specie ogni 100.000 anni, ma che comunque ci mettono decisamente più tempo. Succede in scala minore quando hai habitat simili separati da una zona omogenea di un habitat che è diverso. Certo. Per cui le specie di quegli habitat fanno fatica a trasferirsi tra queste due zone isolate. E quanto facilmente fanno questa cosa determina quanto velocemente si arricchirà. Per esempio, se crei una nuova foresta, se è ben connessa alle foreste circostanti, le specie potranno affluire in questo nuovo bosco e aumentarne la biodiversità finché non diventa un ecosistema, diciamo, più maturo. Ok. Ho due domande da farti. La prima, che in parte hai già detto nella prima parte della puntata, è quali tipi di specie fanno questa migrazione più facilmente e quali più difficilmente. E poi in che modi possono avvenire queste migrazioni. Certo. Essenzialmente dipende tutto da quanto una specie è mobile. Se prendiamo per esempio gli uccelli, non hanno alcun problema a muoversi da una zona all'altra, se sono quelli che volano. Però ci sono appunto uccelli che non volano, uccelli che volano pochissimo, ma ci sono anche uccelli che sono estremamente, estremissimamente selettivi nelle zone dove vivono. E quindi per esempio un uccello che vive solo nei canneti, degli estuari, dei fiumi, farà fatica per la rarità di questo ecosistema a volare, anche perché non è che vola e dice ok, se vado a nord-est per 50 km c'è un altro estuario. Lui vola a cazzo e se gli va bene trova un estuario, se no muore. Quindi è importante la connettività. E quindi essenzialmente è una questione di mobilità della specie, stavo dicendo, e quindi una cosa importante per esempio è anche la taglia dell'animale. Se prendi per esempio di nuovo i lupi, sono animali grossi, che sono un lupo in grado di correre per 100 km in un giorno, o giù di lì o qualcosa, cioè comunque una bella, cioè per una quantità di chilometri enorme, e quindi un lupo in dispersione, quindi che è uscito dal branco per cercare nuovi territori e fondare un suo branco, è in grado di percorrere uno spazio enorme e trovare facilmente un nuovo territorio. Ma anche un tasso, uno sciacallo, le istrici, queste sono tutte specie che sono in espansione in Italia perché è aumentata la superficie forestale italiana e malgrado questi siano boschi giovani, queste specie sono in grado di arrivarci velocemente e lo fanno senza problemi. A loro quello che interessa di più è che non ci siano persone in mezzo, certo. Poi in un bosco riescono a trovare le risorse. Però invece specie appunto molto selettive in quanto ad ambienti fanno molto più fatica. Se immaginiamo per esempio uno scoiattolo che si trova in un bosco, vuole raggiungere un altro bosco che però è a, appunto, qualche chilometro di distanza, qualche chilometro di campi agricoli, appunto uno scoiattolo non è così bravo a correre con la sua coda gigantesca che vedono tutti i predatori da qualsiasi distanza. Così uno scoiattolo è bravo a saltare da un albero all'altro. Certo, però se tra una foresta e l'altra non ci sono alberi... Esatto, fa molto più fatica. Però quelli che fanno più fatica in assoluto sono quelle specie del suolo, di fatto. Perché sono tutti... Cioè, se tu prendi... scavi con la mano un po' di suolo, in mano hai probabilmente centinaia di minuscoli insetti e altri invertebrati che non sono insetti, però ne hai centinaia se non migliaia di questi minuscoli esseri che fanno parte di questo enormissimo gruppo di animali che vive nel sottosuolo e che però sono lentissimi. Cioè tu immagina di essere lungo un millimetro e muoverti in questo spazio tridimensionale dove sei cieco e insomma ti muovi a caso, hanno un movimento completamente casuale, quindi non ne hai uno che va dritto verso la nuova foresta, si muovono a caso e dopo un po' si espandono. Okay. E quindi questi sono animali che ci mettono tantissimissimo a espandersi di territorio, però sono anche una componente chiave degli ecosistemi perché si occupano della decomposizione di tutta la materia organica e anche di altre cose che però vedremo nella parte finale. E queste specie quindi sono il problema maggiore nella rigenerazione di ecosistemi nuovi e per lo più sono anche estremamente sensibili al suolo. Quindi se uno di queste specie, gli organismi del suolo, tipica di una foresta, si ritrova nel suolo di un campo agricolo, muore e basta. Quindi non ha alcun modo, è come se le isole fossero separate dalla lava, cioè non ha alcun modo di arrivarci. Okay. Se non tipo... se rimane incastrato nella sporcizia dei piedi di un altro animale o tra le piume di un uccello, chi lo sa. Certo. Però comunque fanno mega fatica. E quindi questo è il concetto di connettività e quanto un paesaggio, quindi non un singolo ecosistema, ma un paesaggio, quindi un mosaico di diversi ambienti, quanto favorisca il movimento dei suoi abitanti tra ambienti simili. Ok. E la seconda domanda era, come può succedere? Può succedere in due modi la dispersione degli animali o delle spore o dei semi delle piante. Sì. Ci sono questi due termini tecnici che si chiamano dispersione anemocora e zoocora. Insomma, il primo è col vento, il secondo è con gli animali. Ovvero, se tu hai quei semini lì degli aceri che hanno quell'elica, così, quando vola, quando c'è il vento, quelli girano e volano anche a una certa distanza. Se hai una noce, cade verticale e quella fa meno, non è certamente un frutto a dispersione dal vento. E invece la dispersione zoocora è quella mediata da animali, e quindi è l'esempio, per esempio, di tutte le piante che fanno frutti appetibili, che appunto sono piante che vogliono che un uccello o qualsiasi altra cosa se lo mangi e lo caghi più lontano, e questo aiuta un sacco le piante a espandersi e colonizzare nuove foreste, perché certo. Gli uccelli come vettori hanno di fatto un po' ovunque. Esatto. Però non è la stessa cosa per un sacco di piante che invece si disperdono in modi strani, oppure di appunto i soliti organismi del suolo che non hanno alcun modo di disperdersi, poveri disgraziati. Certo. Sì, cioè nella sporcizia che si portano dietro gli altri animali, ma sono quantità irrisorie. Pensando a una foresta intera, certo. Esatto. E quindi la connettività è data da tantissimi elementi nel paesaggio agricolo, soprattutto nel paesaggio agricolo vecchio di altri tempi, dove non c'erano i campi di 10 ettari con le mieti trebbiatrici, ma ciascuno aveva il suo orticello, il suo boschetto, il suo filare di alberi, e quello era perfetto perché appunto i filari di alberi sono come dei corridoi che possono connettere due boschi. Sì, sì, quindi per fare l'esempio sempre dello scoiattolo di prima, un filare di alberi lo aiuta tantissimo a spostarsi da una parte all'altra. Esatto, anzi gli rende il gioco facile di fatto. Ma la cosa può anche essere un fiume che connette due laghi, oppure un fiume che connette due zone umide, quindi con i canneti per quell'uccellino di cui parlavamo prima. Sì, sì, sì. E c'è anche in realtà la presenza di boschetti sparsi, non necessariamente connessi, anche quello aiuta perché il salto tra un boschetto e l'altro è più breve del salto tra un boschetto magari della foresta gigante che c'è molto lontana. Sì, quindi sì. Funzionano un po' come pietre su cui salti per attraversare un fiume. E appunto il paesaggio agricolo tradizionale italiano era super connesso perché era fatto proprio di questa miriade di zone coltivate, zone boschive, magari un frutteto. Alla fine il frutteto era un po' un bosco, sì, quindi sì. Gli altri potevano saltarci e usarlo. E questo è, c'è una metafora che volendo si può usare, che uno può dire che piantare una foresta in mezzo a una zona agricola è come se vuoi costruire un lago, creare un lago, però non hai alcun fiume che ci arriva. Nel senso, questo lago resterà asciutto e si riempirà mega lentamente con la pioggia, magari, oppure dovrai tu versarci dell'acqua attivamente, spendendo un sacco di soldi, e quindi non funziona. Insomma, va connesso al sistema agricolo, il sistema idrico locale, con un canale, oppure collegarlo direttamente a un fiume, e se no non si riempie, è solo scavato un buco. Sì, sì, sì, ok. E quindi... Ok. E quindi, come prima, quest'ultima cosa che hai detto ci fa un collegamento con la terza parte di oggi, e quindi... se piantare alberi e basta è come scavare un lago senza permettere all'acqua di arrivarci dentro, sempre per stare dentro la metafora, cos'è che può diventare un canale barra un fiume che permette invece a questo lago di riempirsi? Cioè, come si fa a ovviare a questa cosa che in una foresta matura ci sono milioni di microrganismi e insomma tutto un appunto ecosistema di specie che collaborano. E come si fa a velocizzare questa cosa quando si crea una foresta nuova? Esatto. Dei ricercatori in Olanda hanno avuto una ottima idea e nella terza parte esploreremo qual è stata la loro idea, qual è stato il concetto di partenza e quindi quali esperimenti hanno fatto. Ok, prima la tua seconda proposta musicale che è un po' diversa dalla prima. Esatto, è forse la prima traccia non con un tema vagamente di natura che mandiamo, però vabbè. E si chiama Quién es el padrón, perdonate la pronuncia spagnola scrausissima, del gruppo o della crew o qualsiasi cosa vogliono chiamarsi, Sistema Solar, che sono, okay, parlano in spagnolo. Ok, quindi ci ascoltiamo questa traccia di cui non ripeterò il titolo perché non ho idea di come quale sia. Visto che la il padrone. E ci ritroviamo subito qua, subito dopo. E io. Bella. Eccoci qua, dopo il Sistema Solar, torna Pillole di Ecologia per la sua terza e ultima parte di questa puntata. Stiamo parlando di riforestazione, delle criticità che può avere riforestare una zona, cioè le criticità, le difficoltà che può avere. Mm-hmm. E abbiamo visto un po' in generale che cosa facilita lo spostamento di specie da una zona di foresta a una zona che deve essere riforestata, che cosa lo impedisce o lo rende più difficile. Ci ha introdotto il buon Dave a uno studio che dei ricercatori olandesi hanno fatto e stanno facendo, che appunto è proprio riguardo a la riforestazione e come facilitarla. Esatto. Adesso magari per correttezza dovrei trovare perlomeno i nomi di queste persone qua che stanno facendo questo studio, però al momento... Ok, beh, comunque... Sono... Vabbè, li troverò, lo prometto. Nomi fiamminghi. Esatto. Che sono olandesi. E comunque loro... in particolare di che aspetto, diciamo, si sono interessati, si stanno occupando? Si stanno interessando di questa pratica che si chiama inoculazione del suolo, che non è una pratica sessuale. Che guascone, Dave. Sì, guarda, oggi sono proprio simpatico. Fibre da zeliga. No, l'inoculazione del suolo è praticamente questa pratica che dice, ok, no, abbiamo piantato un bosco, però non vogliamo aspettare che ci arrivino gli organismi del suolo per conto loro, però sappiamo che sono una parte così importante che c'è bisogno che ci sia. E quindi dicono, e se ce li mettessimo noi? Ok. E quindi se prendessimo una zolla di suolo da una foresta matura, quindi che possiede, se prendi un bel 20 litri di suolo, prendi su tantissime specie diverse. Sì, certo. Prendiamo questo e lo piazziamo in una foresta. Abbiamo creato una sorgente, cioè da questa zona questi organismi avranno un ambiente che per loro è abbastanza favorevole e contribuiranno a loro stessi, crescendo di numero, a renderlo più favorevoli per se stessi e quindi a creare il suolo di una foresta matura e dall'altra parte ad aiutare la foresta a diventare più simile a una foresta matura. Guarda, mi viene in mente una cosa che ci ha detto il buon Theo Follin, che è il nostro arboricoltore di fiducia. Lui dice che è più o meno il principio è lo stesso. Cioè che quando si potano gli alberi una cosa utile, se non serve il legno ricavato, è farlo diventare cippato e pacciamare col cippato le zone intorno ad altri alberi, tipo le aiuole o le zone intorno ad altri alberi, perché questo favorisce la crescita dei microrganismi del suolo. Quindi più o meno il principio è simile. Esatto, aiutare i microrganismi nel suolo che... Essendo bruttini, poverini, poi vivono nel fango, cioè poca gente ha voglia di studiarli, sono poco conosciuti, però hanno un ruolo chiave, vitale, cioè senza di loro non si va da nessuna parte. E quindi è importante prendersi cura di loro e questi ricercatori hanno deciso di farlo, cioè hanno solo iniziato i loro esperimenti. Ho fatto esperimenti in serra, quindi nei vasi, non in foreste, e per cercare di vedere se questa loro ipotesi fosse vera. E quindi, iniziando un po' dal loro incipit, la loro questione che trattano è che, appunto, il suolo dei boschi maturi è pieno di specie che sono in simbiosi tra loro e quindi si facilitano reciprocamente e tutto cresce meglio, di fatto. Ok. Quindi c'è un netto, cioè uno direbbe sì, però saranno anche pieni di parassiti. E invece non così tanto, cioè ci sono i parassiti e come, però in tutta la pletora, per usare di nuovo la parola, il parolone, in tutta la folla di organismi che ci sono anche quelli che si mangiano i parassiti. E quindi vengono tenute... Certo, è comunque in equilibrio. Esatto, sono in un ottimo equilibrio. Dato semplicemente dalla ricchezza di specie che ci sono e che dà a questi boschi una marcia in più, perché non ci sono solo le questioni dei parassiti, ma per esempio avere una grossa varietà di specie di funghi è anche un elemento chiave di queste foreste, perché ciascuna specie di fungo si specializza nel decomporre una, magari una cosetta che c'è nel bosco, non so, le ghiande. Okay. E poi, ok, può decomporre anche le foglie, i legni e così, però è particolarmente brava a decomporre le ghiande. Quindi se hai poche specie che devono decomporre tutto, non saranno così efficienti, ma se hai tantissime specie, ciascuna che fa la sua cosa, tutto verrà fatto meglio di fatto. Certo. E in più ci sono le micorrize, le famose micorrize, che aiutano gli alberi a connettersi tra loro, con le piante. Poi c'è, appunto, si può impostare tutta questa narrativa della natura che è, sì, brava, certo. Tutti bene, poi in verità ci sono un sacco di aspetti di questo. Meriterebbe un episodio a sé stante questo delle micorrize. Potrebbe essere un buon lancio addirittura per la prossima puntata. Yeah. E vabbè, quindi a buon rendere, ne parleremo di più. Per ora gli ascoltatori si accontenteranno, sì, di questo fatto così interessante delle micorrize. E che invito comunque a fare ricerca per conto loro. Se cerchi micorriza oppure simbiosi dei funghi su Wikipedia, trovi sicuramente un sacco di cose mega interessanti. Vabbè, questo era la loro prima punto di partenza. Il loro secondo punto di partenza è che i terreni agricoli, anche quando sono stati abbandonati, non hanno questa ricchezza, perché tutte queste specie sono state fastidiate. Esatto. Okay. Sono reduci da decenni, se non secoli, di appunto uso del suolo in un modo che non è assolutamente appropriato per loro. E quindi, quando metti insieme queste due cose, realizzi che quando pianti un bosco in un terreno agricolo abbandonato, non hai questa ricchezza, non parti già con questa ricchezza, ci vuole molto tempo perché questa si sviluppi. Soprattutto se hai problemi di connettività, come succede nel mondo moderno. E quindi, qual è stata l'idea dei ricercatori? È stata l'idea connettersi al concetto della migrazione assistita, che è già stata usata per animali di grossa taglia, per esempio i bisonti che sono sopravvissuti negli zoo, poi li hanno messi in Polonia e poi in Polonia si sono cresciuti un po', poi ne hanno presi un po', li hanno messi in Olanda, un po' in un'isola della Danimarca, un po' qua e un po' là, in Romania. Così i bisonti per conto loro non ci sarebbero mai arrivati, però così, portandoceli, permetti a loro di espandersi al di fuori del loro areale. E quindi questo concetto di migrazione assistita è stato usata col suolo e con gli organismi del suolo. Quindi assistiamo gli organismi del suolo ad arrivare nel nostro ambiente. E quindi la loro idea è stata di prendere zolle di suolo da foreste mature e trapiantarle nelle foreste in via di sviluppo, per velocizzare questo processo di ricolonizzazione. Ok, ma l'esperimento che dicevi che hanno iniziato a fare in serra, come era, diciamo, impostato? Esatto, questa questione, le zolle di suolo l'hanno fatto mega recentemente, quindi ancora non è passato abbastanza tempo per andare a studiare i risultati. Quindi l'hanno fatto, dico, bella lì. Nei prossimi anni usciranno risultati, si spera, magari interessanti, che aiuteranno appunto tutti i vari progetti di riforestazione. Però hanno provato una cosa seguendo lo stesso concetto, usando un diverso tipo di ecosistema. Hanno usato come ecosistema un ambiente che in Italia c'è molto poco, si può dire che in Italia è molto raro, diciamo, okay, molto poco diffuso. Mentre in Olanda è super diffuso. In Olanda ce n'era abbastanza. Tutta la zona europea oceanica, che va dal nord della Spagna, la Bretagna, il nord della Germania, la Danimarca e i Paesi Bassi, fino all'inizio della rivoluzione agricola, erano terreni estremamente poveri. E su questi terreni estremamente poveri si era sviluppato anche in virtù del sovrasfruttamento da parte delle persone, si era sviluppato questo ecosistema che si chiama la brughiera, che abbiamo già nominato in alcuni altri episodi, e che c'era anche in Italia, in alcune zone nella Brianza. Poi per esempio ci hanno costruito Malpensa sopra la brughiera, perfetto. La zona del Varesotto, però un ambiente estremamente poco produttivo. E quindi nel Novecento e fino al Novecento, se potevano sbarazzarsene o convertirlo in cose più produttive, lo facevano super volentieri. E quindi appunto o l'hanno fertilizzato, ci hanno fatti i campi, o ci hanno fatti i capannoni, o ci hanno fatto un aeroporto. Perfetto. Ce n'è ancora un po' qua e là, però non così comune. Però fatto sta che la brughiera, soprattutto se rimane una brughiera anche per secoli, sviluppa delle caratteristiche che sono uniche e che di fatto la rendono diversa da un campo agricolo o da un pascolo, da un prato, la rendono tanto diversa quanto una foresta antica, perché ha un profilo del suolo stranissimo, quindi con diversi strati, cioè pure può formarsi uno strato di ferro, c'è uno strato di ruggine di ferro incrostata che lo rende impermeabile, e quindi possono formarsi dei laghi a caso così nella brughiera. Succedono cose strane nella brughiera. Ok. Ed è popolata da piante anche loro abbastanza strane, tipo il brugo, che dà il nome alla brughiera. Non mai detto che nella brughiera ci fosse il brugo. Esatto. E un po' di altri tipi di erica e così via. Insomma, c'è tutta la sua componente di specie e specie del suolo che sono uniche della brughiera. E quindi quando in Olanda cercano di rigenerare e ripristinare le brughiere, hanno un problema enorme, perché se tu pianti le piante della brughiera in un suolo agricolo, ci sono così tanti nutrienti, il suolo è così buono e così ottimo per la crescita di altre piante, che le altre piante devastano le piante di brughiera, che sono fatte per resistere a tutte le intemperie che ci sono nella brughiera, ma non sono capaci di reggere il confronto con una bella erbaccia che cresce a cannone quando c'è un buon suolo. Ok. E quindi vengono escluse dalla competizione, vengono superate in questa gara a ricolonizzare questi territori. E quindi praticamente, vediamo se riesco a intuire come è andato questo esperimento, loro hanno tipo preso un po' di questo terreno e messo in un vaso per vedere come cresceva la pianta di brugo. Esatto, hanno preso un po' di piante della brughiera e un po' di piante di un terreno agricolo, quindi hanno preso in realtà tre specie di brughiera e tre specie che hanno definito ruderali. Ruderale è un concetto di ecologia delle piante, quindi dello studio del comportamento. Sì, e tra l'altro a noi della Rap Caverna è molto caro questo termine. Esatto. Abbiamo fatto un album intero. Ruderali. No, scusa? No, dico, ci abbiamo fatto un album intero. Esatto. Le specie ruderali sono quelle specie che sono adattate a ricolonizzare un terreno dopo che è stato disturbato. E quindi sono le prime che arrivano, ma devono anche essere quelle, sono anche quelle che si fanno più a gara tra loro a chi cresce per prima e quindi chi occupa più spazio. E quindi sono piante che sono fatte per crescere velocissimamente, quindi mettono tutte le energie nella crescita e nella riproduzione. E quindi sono piante che crescono stra in fretta e che quindi soffocano tutte le piante che invece crescerebbero più lentamente. E sono piante che di base non vuoi, perché sono anche quelle infestanti. Un esempio di pianta ruderale, per esempio, è la marijuana, anzi la cannabis, per usare il termine, il suo nome vero e proprio. La cannabis, soprattutto le varietà autofiorenti, è una specie ruderale. La varietà autofiorente è quella più ruderale di tutte, perché è programmata per crescere in 2 mesi, quindi mette tutta l'energia che ha nella crescita. Sì. E poi tutta l'energia che ha nella fioritura, e in pochissimo tempo passa da essere un seme ad aver prodotto i semi, se appunto no, non ci si fuma i fiori prima. Certo. Quindi okay. Queste piante ruderali sono un problema. Quindi ne hanno preso un po', tre specie, e tre specie di piante invece che vengono chiamate stress tolleranti, quindi questo altro tipo di comportamento che può avere una pianta, di strategia. Okay. Piante stress tolleranti da brughiera, e le hanno messe a coppie in vasi, però nello stesso, nel vaso hanno fatto un po' di test e hanno fatto vasi in cui c'era il suolo di brughiera, vasi in cui c'era il suolo agricolo e vasi in cui c'era un suolo neutro, quindi sterile, okay, e vasi in cui c'era un mix dei due suoli. Cioè un po' agricolo e un po' di brughiera. Esatto. Okay. La cosa base che hanno scoperto è che quando sono nel suolo di brughiera le piante ruderali vengono, come si dice, non crescono così bene, perché non ci sono tutte quelle specie che le aiutano. Okay. Invece crescono molto bene le piante di brughiera, perché si ritrovano nella loro crew, nel senso con tutti i loro compagni di crescita, e quindi fanno velocemente le micorrize, e sono capaci di estrarre i nutrienti della brughiera e così via. Quando invece usi un suolo neutro, le specie agricole esplodono, cioè le specie ruderali esplodono crescono completamente al di sopra delle piante. Okay, soffocano le altre. Le soffocano. E poi hanno visto che quando usi invece un suolo agricolo, anche in quel caso le piante ruderali sconfiggono le piante di brughiera, perché anche lì è pieno di nutrienti, quindi già con quelli fanno un sacco. Però, e quindi abbiamo visto, con questo hanno visto che le piante stanno bene nel loro ecosistema, di fatto. Cioè, se una pianta è fatta per crescere nella brughiera, cresce bene in un suolo di brughiera. E viceversa, se in un suolo ruderale, cresce bene una pianta ruderale. Quello che però hanno visto è una cosa molto interessante, ovvero che c'è un'altra componente, ovvero quella dei parassiti. Perché da un conto ci sono i rapporti mutualistici, quindi quelli in cui le specie si aiutano a vicenda, dall'altro però c'è anche la questione dei rapporti, come si dice, antagonistici, giusto. Ok. E hanno visto che mentre da un lato le piante di brughiera sono così stress tolleranti da investire un sacco di risorse anche nella difesa dai patogeni, ok, quindi non sono così colpite dai patogeni del suolo, le piante ruderali se ne fregano, perché tanto vivono 2 mesi, il patogeno del suolo può anche mangiarle, può anche ucciderle, però loro fanno comunque in tempo a fare i semi. Ok. Però questo comunque ne limita la crescita, la velocità dello sviluppo, perché loro puntano tutto nella crescita, ma non mettono alcuna energia nella difesa dai patogeni. Sì. E quindi, appunto, l'idea che hanno avuto, secondo me, più brillante questi ricercatori, è stata che se usi il suolo, se mescoli i due suoli, otterrai questo mix che da un lato ha tutti i mutualisti che aiutano le piante di brughiera, però nello stesso suolo avrai anche un sacco di parassiti che colpiscono le piante ruderali. Ok, cioè che ti ammazzano quelle soffocanti, diciamo. Esatto, e quindi metti insieme questo team che funziona benissimo per fare questa conversione. Ok. E l'hanno fatto, e è venuto fuori che succede davvero così. E quindi, niente, questo è stata una gran bella scoperta, perché può essere una tecnica utilissima. Cioè, quindi diciamo, se è replicato in grande per riforestare, se da una parte tu pigli della terra di una foresta matura, e la metti nel, diciamo, nell'humus, nel substrato di una foresta appena ricreata, quindi giovanissima. E dall'altra parte prendi un po' di terreno agricolo e lo metti sempre nella stessa zona. Il terreno agricolo contribuisce, vediamo se ho capito bene, a far ammalare le piante ruderali. Esatto, quindi a contenerne la loro pomposità. Che se non ci fosse questo, crescerebbero a discapito di quelle che invece vogliamo che crescano, no? Esatto, quindi di fatto quello che succederebbe sarebbe che avresti questo tappeto di erba che soffoca tutti i semini delle piante che stanno crescendo. Ok, però dall'altra parte, mettendo quello di foresta, hai tutte le micorrize, i funghi, gli insettini del suolo, che invece velocizzano la crescita di quelle che vogliamo noi. Esatto. Minchia, figo. Figo, esatto. Figo vero, perché appunto poi un'altra cosa che puoi fare insieme a questo suolo è impiantare anche specie forestali, come per esempio le anemoni. Non so, per fare un esempio a caso, se hai piantato un bosco e gli mancano specie che siano tipiche dei boschi, puoi in teoria piantarle e così li avvicini un altro po', appunto aiuti anche specie più grosse, non solo quelle del suolo. Questa è appunto la migrazione assistita, però okay. Nella questione del suolo è particolarmente utile, perché il problema delle specie ruderali che soffocano quelle più dell'ecosistema più sviluppato e più maturo è un problema appunto che crea delle difficoltà. Ok. Crea delle difficoltà nello sviluppo di foreste nuove. Ok. Ho delle domande da farti. Vai. Perché tu hai detto che hanno iniziato a mettere questo terreno in foreste giovani, però esatto. Non ci sono ancora i tempi per ottenere dei risultati. Esatto. La prima domanda che voglio farti è: quanto tempo ci vuole perché realisticamente si veda una differenza in una foresta con aggiunta di suolo e foresta senza aggiunta? Difficile da dire. Io direi sicuramente meno, che cioè ci vuole meno tempo con l'aggiunta rispetto a quanto ce ne voglia. Ok. Volga, rispetto a quanto ce ne voglia senza. Però dire quantificare questa cosa è proprio quello che scopriranno questi esperimenti che hanno fatto. Però secondo me, soprattutto per alcune specie, appunto se prendiamo questo un minuscolo insettino lungo un millimetro che dovrebbe trasportarsi da un lato all'altro di un campo agricolo, dove muore automaticamente se ci entra, sì. Dal punto di vista di quell'animaletto la cosa cambia in modo sostanziale. Certo. Quindi okay. Secondo me l'impatto può essere notevole. Poi la questione è anche quanto velocemente dalla zolla questi organismi riescano ad espandersi nel nuovo. Certo, nel immagino nuovo. Anche, non so, quanto sia grossa la zolla un po' influirà. Esatto, certamente. E... A me, mi veniva in mente che un po' di tempo fa c'era questa roba, questa notizia che girava di questi due, non so come chiamarli, ecologi forse, comunque che avevano fatto un accordo con una industria che fa succhi di arancia, per cui hanno fatto scaricare tonnellate e tonnellate di bucce d'arancia in una zona di foresta, penso fosse in Sud America, che era stata disboscata, e praticamente l'avevano fatto, poi era stata persa questa cosa, e sono ritornati 15 anni dopo e hanno visto che c'era stata, cioè che ovviamente le bucce erano state tutte decomposte e c'era stata una crescita incredibile, cioè proprio una foresta super che per essere passati solo 15 anni era una roba incredibile. Okay. Immagino che sia anche questo, se questi microrganismi hanno tanta ciccia da mangiarsi, cresceranno più in fretta. Immagino. Quello sì, quello potrebbe aver aiutato un sacco in effetti. Cioè, a pensarci, ci sono un po' di fattori che potrebbero aver aiutato, sì. in primo luogo appunto dare questa botta agli organismi del suolo, che quindi hanno preparato il suolo e l'hanno reso ottimale, diciamo, per le specie che ci dovevano arrivare. Mm-hmm. Da un altro lato c'è anche la questione di rigenerare il suolo, perché questi organismi per creare il suolo hanno bisogno di materia organica da decomporre. Sì, certo. Il suolo è fatto da una componente minerale, che sono le rocce sbriciolate dall'erosione. Sì, sì. Però sono anche fatte da una componente organica che è la cacca di tutti questi organismi, di questi sì. organismi del suolo. Però devono aver cagato, cioè devono avere roba da cagare. E quindi queste bucce d'arancia potrebbero essere state la fonte della materia organica che è stata usata per rigenerare questo suolo. Perché okay. prima che si stabilisca una foresta, il più delle volte devi aver bisogno del suolo. Perché quando una foresta viene completamente sradicata, e soprattutto in zone tropicali dove piove così tanto, e il suolo è particolarmente fragile, se tu rimuovi tutti gli alberi, poi piove, e il suolo viene tutto lavato via dalla pioggia. Certo. Sì. È un po' sempre il principio della pacciamatura di cippato del buon Teofollin. Sì, se tu fai un tappeto di appunto sostanza legnosa morta per terra. Certo. Cioè, mi immagino in una foresta matura saranno anche solo banalmente le foglie degli alberi che in autunno cadono, che rigenerano questo humus di sostanza organica. È esattamente quello. Però nel momento in cui non hai alberi... Certo, o in un bosco con alberi molto piccoli, che cioè, per quanto possano star bene di foglie, non è che ne fanno tante quante un albero secolare. Esatto. E quindi ci sta questa storia. Beh, interessante. Non lo ricordavo. E quindi, bella lì, bella per questi ricercatori. Attendiamo intrepidamente di avere i risultati dei loro esperimenti, perché poi potrebbe essere utile replicarlo ovunque, no? Cioè, certo, una volta che si capisce che questa roba qui, se non altro, o velocizza o, non so, dico una cagata, però magari fa stare più in salute le piante di questa nuova foresta che si vuole creare, è una cosa che si può replicare più o meno ovunque, no? Esatto, cioè poi potrebbero appunto nascere proprio iniziative volte a creare questi suoli da inoculare. Non so se riesci a creare delle condizioni ideali, puoi magari produrli industrialmente, diciamo, in un certo ecco, senso. Infatti una cosa che mi veniva da chiederti era, io qua sul balcone ho dei vasi dove faccio... Boh, delle mini coltivazioni, non so, adesso c'ho i piselli, però d'estate ci faccio i peperoncini, eccetera, e io mi sto, tra virgolette, coltivando i lombrichi, o comunque ci faccio il compost dentro, e quindi la mia terra è piena di lombrichi, insettini, eccetera. Sì. Quindi, secondo te, questo substrato, invece che di un vaso, di un bosco, quindi con tutti quei microrganismi lì, si può coltivare potenzialmente, o è una cosa troppo complessa? Beh, per alcune specie sicuramente sì, perché se hai un suolo abbastanza, magari abbastanza un po' povero di nutrienti, con una certa serie di condizioni chimiche e fisiche, secondo me, cioè, per molte di quelle specie è possibile esistere. Poi ci sono quelle decisamente più schizzinose, o quelle che hanno i requisiti più difficili, okay. che possono essere per esempio alcuni funghi che hanno bisogno, o insetti che hanno bisogno di condizioni estremamente particolari, o magari hanno bisogno di una pianta a cui connettersi. Così quelli sarebbe un po' più difficile, però già solo avere una foresta in cui sai di avere un buon suolo. Sì, poi, certo. Adesso sto sparando un po' a caso. Però magari se appunto è questa foresta da cui puoi prelevare suolo e trovi la quantità giusta di suolo da cui prelevare per cui non crei un danno alla foresta, magari sarebbe anche molto meglio di una fabbrica del suolo, perché sarebbe una foresta di fatto. Sì, certo. Beh, insomma, le sfide del futuro, le sfide della riforestazione, cioè insomma, della riqualificazione ecologica ambientale del futuro passano anche da questi mini microrganismi. Certamente, sì. Saranno uno dei protagonisti della nostra rinascita verde. Oh, Dave, io come al solito ti ringrazio di brutto, perché cioè, devo dire che riesci a spiegare delle cose anche, come dire, molto settoriali o anche complesse, però in un modo semplice ma anche piacevole da ascoltare. Sei un po' il nostro Piero Angela. Ma lo spero proprio. Mi fa piacere parlare così a caso, però appunto spero che non sia troppo noioso. No, no, almeno per quanto mi riguarda no, non ho ricevuto lamentele da parte di chi che sia, quindi direi di no. Ci diamo appuntamento al prossimo ultimo mercoledì del mese, quindi l'ultimo mercoledì di maggio. Di aprile. Ah sì, minchia, siamo aprile. Di aprile. Sì, sì. 28. Sì, e con la prossima puntata. Forse nel corso di questa, di quella di oggi, abbiamo trovato anche un possibile argomento. Esatto, le micorrize. Le micorrize. E niente, prima o poi arriveranno sul sito di ZAM tutti i podcast di tutte le nostre puntate, che è il nostro buon Pica, che ringraziamo proprio, come dire, con cuore e braccia aperte per il fattore che si fa per la radio. Ci saranno anche i podcast di Pillole di Ecologia. Quindi niente, per stasera vi salutiamo con la solita sigla di chiusura nostra, che è Greta Thunberg di Marrakesh. E niente, dopo questa sigla di chiusura, come al solito, c'è musica a perdita d'orecchio, senza interruzioni pubblicitarie né un cazzo, perché Radio ZM, in quanto radio indipendente, è totalmente autogestita, c'è la musica che tutti gli stronzi e le stronze che vengono a ZAM ci mettono dentro con la loro buona chiavetta, e va avanti fino al prossimo programma. Grande rispetto. E niente, quindi ci sentiamo questa traccia e poi buona musica per tutta la notte. Bella raga, grazie dell'ascolto. Io. Sono un animalista, animalier, animal house. Dormo sotto le stelle tipo scout. Si è estinto il koala, prima che io ne assaggiassi uno. Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo. Ehi, hey, l'ultima festa in un bunker. Ehi, hey, chiamo tutti pure Greta Thunberg. Ehi, hey, dal tramonto di questo sistema. Ehi, hey, fino all'alba di una nuova era. Ho idea che per l'inquinamento fare la differenziata non sia abbastanza attenta, no? È come se per l'invecchiamento bevi la centrifugata con l'avocado e zenzero. Mi spiace che invece che al buco nell'ozono pensavo a campare che avevo i buchi in zona, sento con il mio ambiente per come i rappa noi, sono un incosciente quindi da retta a lui, ehi. Ce la posso fare, meglio di mio padre, io ce la posso fare, cambiare, la mia razza si estingue. Ce la posso fare, meglio di mio padre, io ce la posso fare, ripartire, la mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Questa estinzione eclatante andrà un po' come tutte le altre. I ricchi andranno su Marte o su una stazione orbitante. I media andranno in guerra a difendere ciò che hanno. Ai poveri forse non cambierebbe più di tanto. I gradi si alzano e scende il livello, come ci stessimo avvicinando all'inferno. Il dramma è che scompariranno in tanti, ma finiremo poi per adattarci. Nascosta al buio come scarafaggi. Non